Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ma hai la pancia gonfia, le gambe gonfie. Grazie, sennò perché venivo da te vorrei dirle. L'umiliazione però ha il sopravvento e quindi abbozzo una scusa. No, sai, è che domenica c'è stato il compleanno di mia zia, un gran pranzo, hanno servito anche l'aperitivo. Sai com'è, no? Sono Maria Corsetti, sono di Latina, ho 46 anni, disoccupata e zitella. Pronto? Ciao nonna! Ciao Matteo! Come stai? Bene, grazie, tu? Bene, bene, alla grande. Senti, volevo chiederti una cosa al volo, poi ti lascio tranquilla, ci sentiamo con calma. Siccome oggi faccio tutta una puntata in cui si parla della cattiveria delle donne. Sai che ogni tanto le donne, soprattutto con le donne, sono un po' cattive. Sei d'accordo con me o no? Ma sì. Cioè, nel senso che, secondo te è vero che le donne con le donne sono un po' più cattive di quanto non lo siano gli uomini con gli uomini? O è una banalità? Ma guarda, Matteo, anche gli uomini. Però, nonna, io mi ricordo che tu mi raccontavi che le, come si chiamano, le sorelle Brisca, che ti facevano degli scherzi quando eri bambina, che ti facevano spaventare. Sì, sì. Quando raccogliavamo il grano turco, sì, lo mettevamo sull'aia, sì, e la sera, oltre noi, venivano anche delle donne a pagamento aiutare a scartuscer, cioè? A tirar via le foglie dalle pannocchie. Ecco, okay. Bravo. Allora, poi bisognava portarla su per mettere a seccare il sole, che poi lo portavamo dal mugnaio a farla macinare e facevamo la polenta, sì, in inverno. Sì, sì, sì. Ecco, allora cosa succedeva? Che quando hanno deciso di mettere la luce elettrica nella casa, sì, che avevamo, loro prima di metterla sulla scala l'hanno messo nella stalla, perché se per caso una bestia partoriva di notte, avevano la luce per poter vedere, perché quando partorivano le mucche facevano i nostri padri e le levatrici. Certo, insomma. Certo. E quindi, scusami, avevano messo la luce nella stalla e non nel corridoio? No, non c'era il corridoio, la luce non c'era. Allora cosa facevano? Mettevano una candela. Sì. Mettevano una candela accesa per dar modo di vedere che salivamo con le pannocchie sulle braccia. Sì. Una mia cugina era un po' dispettosa, la Rida Brisca, era un po' dispettosa, lei andava davanti e io mi lasciavano sempre di dietro. Prima che io raggiungevo la scala con la luce, lei diceva: arriva il mago, e io avevo una paura matta. Avevo una paura matta, perché poi tutti scappavano e io dovevo ancora andare su a portare le pannocchie. E questa candela che aveva sul braccio. E questa era la Rina Brisca. La Rina Brisca. Rina Brisca, adesso è già morta. Pace all'anima sua. Nonna, senti, va bene, io ti ringrazio perché volevo sentirti fare uno dei tuoi racconti, che magari lo mando in onda più tardi. Va bene. Va bene? Nonna, ascolta la puntata, mi raccomando. Adesso subito. Devo dire che quando mi è venuto in mente di chiamare mia nonna per chiederle qualcosa riguardo la cattiveria delle donne, non mi aspettavo esattamente un aneddoto in cui la Rina Brisca le facesse arriva il mago, che poi credo voglia dire tipo arriva l'uomo nero o banalmente fare bu. Però c'è un pochettino di cattiveria racchiuso in quel pace all'anima suo, arriva il mago della Rina Brisca, quando mia nonna doveva camminare da sola al buio con una candela in mano. Questa puntata è dedicata alle donne. È il 7 di dicembre, Milano è chiusa per ferie, Radio 24 no. Tutte le donne all'ascolto, se hanno voglia di mettersi una mano sul cuore e l'altra sul cellulare oppure sulla tastiera del computer, scrivere al 349-238-6666 oppure a Matteo Caccia, io sono qui su Facebook, ma anche a voi siete qui, @radio24.it, se hanno voglia, appunto, come dicevo, di scrivere qual è stata la più grande cattiveria che hanno fatto nei confronti di una donna, quindi di una loro cogenere, si dice? Pari genere. è un genere, no? Genere femminile, cioè ha un'altra donna. 349-238-6666. Daria mi scrive: per citare la frase di Mae West, when I'm good I'm very good, but when I'm bad I'm even better. Quando sono Mae West, quando sono buona sono molto buona, ma quando sono cattiva sono anche meglio. 349-238-6666. Il tutto perché oggi è arrivata la storia di oggi è la storia di una è una storia molto semplice che devo dire, quando l'ho letta la prima volta ho detto vabbè, però insomma, la storia di una donna che va dall'estetista, cosa ci può essere dentro? E in realtà, leggendo fra le righe, c'era esattamente quella cosa lì. C'era di quanto, con due parole o con un gesto, una donna possa essere cattiva. Non lo so se più o meno degli uomini, ne parliamo dopo, poi non vorrei generalizzare. Però c'è una raffinatezza nell'essere cattive, nel modo di essere cattivo femminile, che non c'è in quello maschile. C'era un altro messaggio che era arrivato al profilo Facebook, che era questo, vabbè, Esther: mettete in ufficio a lavorare solo donne, con invidia, competizione e bastardaggine, la cattiveria viene da sé. E poi un messaggio di Olivia, che deve essere particolarmente sicura di sé, perché dice: io sono particolarmente bella e tutte mi odiano, ora che l'ho scritto poi ancora di più, perché le donne quando sono cattive sono pure ipocrite. 349-238-6666. Poi mi è venuto tra le mani un documento che credo non facciamo in tempo adesso, giusto? Che vi leggerò più tardi. Questo documento è la sbobinatura di una chiacchierata tra quattro amiche, che non so, sinceramente non so perché queste quattro amiche abbiano deciso di registrarsi. Non so se una l'ha fatta all'insaputa delle altre, oppure sono messe lì e hanno detto: vediamo cosa riusciamo a dire quando vogliamo essere cattive. Sta di fatto che una persona di cui non rivelerò mai il nome mi ha fatto avere questa sbobinatura. Cos'è una sbobinatura? Tiziano mi chiede. Una sbobinatura è semplicemente una riscrittura di una trascrizione di un nastro audio, giusto? Per cui io ho ricevuto questo audio e l'ho buttato giù, ed è come se fossero 10 minuti rubati a quattro donne che parlano. Per cui, uomini all'ascolto, alzate il volume della radio più tardi, perché una roba del genere non vi capiterà mai di sentirla, perché un uomo lì in mezzo fa la differenza, e tra di loro le donne queste robe non se le dicono, non lo dico io, me l'ha detto la persona che mi ha dato questa sbobinatura, che fa molto anni 70, sbobinatura. Però questa abbiamo detto, le leggiamo più tardi, perché sono le 16:13 minuti di mercoledì 7 dicembre 2011 e questo è il racconto di Maria. Lo sguardo è severo e il rimprovero è diretto. Sei ingrassata di un chilo. La mia estetista Silvia non fa niente per nascondere la sua delusione. Il rammarico di fronte all'irreparabile fatto che dopo tre trattamenti a base di fanghi e massaggi io abbia avuto l'impudenza di non dimagrire, anzi, di prendere peso. Ma va che roba, hai la pancia gonfia, le gambe gonfie. Mi verrebbe da dirle grazie, se no perché vengo da te. Però l'umiliazione è al sopravvento, quindi abbozzo una scusa. No, Silvia, sai che domenica c'è stato il compleanno di mia zia. C'è stato un pranzo sontuoso. Hanno servito anche l'aperitivo, sai com'è? Silvia capisce subito di aver fatto centro. E allora sferra il suo colpo basso. Non lo so perché, forse perché mi odia. O forse per dare più importanza al suo lavoro. Mi suggerisce di fare una dieta, altro che fanghi. Dice che conosce un dottore esperto, bravo. E poi tira fuori la questione delle intolleranze alimentari. No, però io da questo, di cui non metto sicuramente in dubbio la professionalità, non ci vado. Avrà fatto dimagrire lei, le sue amiche, le sue clienti, ma a me non interessa. Io non sono malata e non peso nemmeno 30 kg più del necessario. Sì, vabbè, ho diverse decine diete di troppo, questo sì. Ma secondo me basta mangiare decentemente e posso tornare al mio peso forma senza problemi. Con il cibo ho un ottimo rapporto, nel senso che lo adoro. Ogni tanto ne abuso, non ho mai però fortunatamente avuto problemi più seri, semplicemente qualche decina di etti di troppo. Mi sono accettata alla fine, qualche difetto c'è, finora niente chirurgia estetica, ma non escludo nel futuro. Silvia mi sente rinunciare e vedo che vorrebbe strangolarmi, ma evita di farlo, solo perché oltre a essere una sua amica, sono una sua cliente e un omicidio danneggerebbe l'immagine del centro estetico. Tra noi però cala un silenzio risentito. Sembra un film western. E io sono in mutande. Non vale. Dopo la pesa mi metto sul lettino per il massaggio. Quando arrivo alla zona coscia, sento le mani di Silvia che affondano con soddisfazione nei cuscinetti di Grasso. Mi fa veramente male. E sono sicura che lo stia facendo apposta per sottolineare lo stato della cellulite. «Ti fa male?» mi chiede perfida. Io sto per qualche secondo zitta e pensa a quanto vorrei fargliela pagare questa sua supponenza. E poi mi viene in mente la sua vita sentimentale e le rispondo con una domanda. «Come va con gli uomini, Silvia? Tutto bene?» Dall'estetista è divertente parlare di uomini, anche perché oltre a farlo con Silvia, che è la mia estetista, ma anche un'amica, lo faccio con delle perfette sconosciute che stanno in altre cabine, quindi io conosco le loro voci, sento ogni tanto che so qualche strillo per la ceretta o di dolore, ma non le conosco. Lei tace, molla la presa sulla mia ciccia. Ho vinto. Non è che sia stato molto difficile. Quanto a fidanzati, Silvia vanta un bestiario molto peggiore del mio. Ha iniziato tardi le sue uscite in coppia, ma è riuscita sempre a raccattare il peggio del peggio. Individui dubbissimi, non cattivi ragazzi, per carità, ma dei cretini. E lei lo sa. E le fa paura l'idea che siano solo loro a interessarsi a lei. Tutte quelle sedute passate ad ascoltare le sue menate sentimentali mi sono servite a qualcosa. E allora si arrende. E dice che per oggi il peso non me lo segna sulla scheda. Poi smette di parlare. Io sono girata di spalle, ma spero tanto che stia piangendo. You say it's not what you do, it's what you thinking of. Well, I think it's just an excuse, it's what you put across. Yeah, I don't wanna be the one. Ci sono quei uomini che dicono che se fossimo governati dalle donne invece che dagli uomini, il mondo sarebbe migliore. Io sinceramente non lo so, però so che ci sono alcuni che dicono che in alcuni periodi è stato così e non sono stati proprio periodi memorabili. Una volta ho sfogliato un libro che si chiamava Le 101 donne più malvagie della storia e ho letto alcuni nomi che non mi ricordavo. Isabella di Castiglia, per esempio. Lei fu la regina che diede a Cristoforo Colombo la possibilità di compiere il suo viaggio. Ma forse non tutti ricordano che fu lei a dare a Torquemada l'incarico di primo inquisitore generale nella Spagna unificata, con il compito di purificarla, convertendo oppure torturando e uccidendo eretici, ebrei. Ed è lei che quel periodo l'ha iniziato. Oppure la regina d'Inghilterra, Maria I Tudor, che da piccola fu amata e istruita e da grande scelse di riportare il cattolicesimo nel suo regno a furia di assassini e repressioni. Per questo motivo le hanno anche dedicato un cocktail a base di pomodoro che raffigura il sangue, ovviamente. E sono casi rari questi, ovviamente. Però sono contento di aver letto un po' quel libro, anche perché altrimenti io rischiavo di diventare più femminista di Rosa Luxemburg. La realtà è che uomini e donne sono diversi, ovviamente, ma nessuno è tutto buono e nessuno è tutto cattivo. E poi le donne hanno di solito delle modalità misteriose per mostrare il loro lato oscuro. In qualsiasi età ci saranno sempre delle differenze. I ragazzi adolescenti possono distruggerti l'appartamento, ad esempio, con danni che misuri in denaro, mentre le ragazze ti lasciano cicatrici nell'anima che scopri solo dopo anni. Niente di così visibile o immediato. È la differenza che c'è tra Dexter e Lolita, più o meno. È un po' la differenza che c'è tra maschi e femmine in generale. Un uomo magari può rubarti la macchina, può darti fuoco alla casa, può picchiarti. Una donna però può rovinarti la vita. Una donna può tirare fuori il peggio e farti sentire in colpa per sempre. Un po' come è capitato a un mio amico che mi raccontava dei suoi due figli, un maschio di 5 e una bimba di 6. Il piccolo era evidentemente iperattivo e pericoloso. E un giorno ha rotto un giocattolo della sorella perché, come tutti i maschi, è maldestro e un po' superficiale. E non si è nemmeno scusato. E lei sulle prime non ha reagito, perché le donne sono geneticamente non violente. Però il giorno dopo è andata da lui, è andata dal papà, e gli ha detto che se non poteva aggiustare il giocattolo rotto, allora lui avrebbe dovuto rompere un giocattolo del fratellino, così, per essere pari. E la cosa tragica è che quel mio amico lo ha fatto. Ha preso un giocattolo di suo figlio e lo ha spaccato di nascosto da lui, mentre sua figlia lo guardava però. E lei era felicissima. E lui si è sentito anche uno schifo, anche se sapeva che non aveva altra scelta. E qui non ho figli, però questo racconto mi ha fatto capire alcune cose. Un'altra volta invece mi ricordo, ero a Dublino, mi sono fermato su un marciapiede a guardare cosa stava succedendo davanti a un locale al di là della strada. E c'erano dei giovani con delle birre in mano. Le ragazze avevano sulla minigonna, i ragazzi invece delle magliette di squadra di calcio. Tempo pochi minuti e le ragazze si erano racchiuse in un gruppo a chiacchierare. E i ragazzi invece si stavano picchiando selvaggiamente. Quelli che rimanevano in piedi avevano come se avessero il permesso di avvicinarsi al gruppetto di ragazzi. Che non è sempre così. Però quell'episodio è stato abbastanza evidente. Più di tutto però mi ha colpito oggi il racconto di Maria. Perché nel suo racconto non c'è violenza fisica, non c'è sangue, non c'è dolore, non c'è combattimento. Però c'è una sotterranea cattiveria gestita con grande classe che mi ha fatto un po' paura. Io ho sempre creduto che le donne fossero tutto sommato incapaci di essere malvagie. Non fosse altro che perché loro sono tutte potenziali madri e devono avere tutte dentro una specie di bontà assoluta che gli uomini forse non hanno. Però è anche vero che in natura l'animale più pericoloso è una madre che sente minacciati i propri cuccioli. Ti può sbranare senza chiederti nemmeno chi sei. Insomma, come al solito ho mille domande e non manco una risposta. Per fortuna per oggi c'è Maria, che mi ha mostrato che ci si può prendere una rivincita per un torto subito, anche solo con due parole messe al posto giusto. Perché ognuno ha il suo punto debole e le donne, di solito, lo sanno trovare meglio. Per fare la madre delle cattiverie, urlerò in faccia ad un uomo che è cornuto da anni, anzi pluricornuto, che da anni sta coprendo la santerellina di sua moglie, durante le sue fughe amorose. Perché parlo ora? Perché la santerellina ora ha pestato i piedi a me. Ovviamente non firmo. Occhio, perché questo credo sia stalking, cioè proprio ufficialmente, credo ci siano stati dei casi. Non firmarti, non farlo, fai come vuoi, ma occhio perché potrebbe essere quella roba lì. 349-238-6666, non è di questo tipo di cattiveria che parlava Maria, però qualcosa nel suo racconto si intravedeva. Pronto Maria? Pronto Matteo, ciao! Come stai? Bene, bene, ma quella non era cattiveria, quelle sono cortesie. Cioè rispetto alla cattiveria vera e propria, vuoi dire? Cioè, sì. Vuoi dirmi che tu sei capace di cattiverie maggiori? Ma guarda, penso sì, penso di sì, sì. Ma nel senso che te ne ricordi una al volo oppure... No, guarda, non ne ricordo una al volo, no, non le ho mai fatte veramente, però diciamo che avrei voluto farle, non ci sono riuscita perché poi nell'attuazione poteva esserci qualche difficoltà, però veramente quelle che ho raccontato sono cortesie. Senti, come sta Silvia, la tua estetista? Perché... Silvia, la mia estetista, sta molto bene, ci sta ascoltando, confermo che siamo amiche, ma confermo anche che c'è stato veramente un momento di risentimento durante quel massaggio. Ma nel senso che ne avete parlato poi? Sì, perché poi ci siamo, cioè dopo le ho detto adesso ci scrivo una storia su questa cosa . E praticamente fine del messaggio ho iniziato a dirle allora proprio a dirle come avrei scritto il racconto in cui metterò Silvia il nome di fantasia, okay. Proprio così scherzando, e quindi lei era assolutamente consapevole che io avrei scritto quel racconto, l'ha anche letto in anteprima. Ah, quindi e ci sta ascoltando in questo momento? E penso proprio okay. Di sì, sta nel quindi... suo centro estetico, sta lavorando, ma so che insomma sarebbe stata assolutamente, insomma si sente protagonista. Senti, tra l'altro io ti ringrazio per un altro motivo, Maria, perché per la prima volta io ho intuito come può essere un centro estetico, nel senso che gli uomini, no non è vero, mi dicono che ci sono degli uomini che vanno dall'estetista, giusto? Sì, sì, sì, okay. Come no, voglia. Vabbè, però in generale, ad esempio, gli uomini qui presenti in questo studio, nessuno è mai andato dall'estetista. Ma dicono tutti così, poi li vedi al mare, non no, ma guarda, aspetta Maria, tu dovresti cose. Vedere Paolo Corleone, Tiziano Bonini, ti assicuro che non credo vadano dall'estetista, ma tant'è, cioè il fatto per esempio che un'estetista è fatta con dei pannelli che separano i lettini, giusto? Mi dicevi, sì, per cui ci si parla da un lettino all'altro anche? Esatto, sì, che non ci si vede, non ci si conosce. E di cosa si parla, scusami Maria? Beh, di uomini, mi sembra ovvio. Questa è la solita domanda, di cosa parlano le donne quando parlano tra donne? Di uomini in maniera assolutamente negativa, nonostante che insomma stiamo lì per farci belle teoricamente, anche per piacere a degli uomini, no? Ma quindi tu pensi nella teoria che le donne si fanno belle solo per essere belle e non per essere belle per gli uomini? Rifaccio la domanda. Guarda, allora Adesso che a noi ci fa piacere svegliarci la mattina, guardarci allo specchio ed essere gradevoli, è vero, ma che lo facciamo solo per noi stesse, dai, su, via. Senti Maria, l'ultima domanda e poi ti saluto. Quindi vale l'equivalenza per cui l'estetista per le donne è lo spogliatoio per gli uomini? Beh, non sei mai stato uno spogliatoio di uomini, quindi forse non puoi saperlo. Beh, o forse sì. Ecco, non lo so, però sì, immagino quello. So che insomma gli uomini sono. Le donne sono più così, diciamo, raffinate nei loro commenti. Magari non usano vocaboli diversi, ma dicono le stesse cose. Sì, sì, ora che ci penso, sì. Maria, senti, ti ringrazio molto per il tuo racconto. Salutami Silvia, che non si chiama Silvia, ma ci ha dato uno spaccato di quella roba. Si chiama proprio Silvia. Ah, perfetto. Grazie Maria. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao Matteo. Voi siete qui. Ci sono due illustrazioni che raccontano la storia di oggi, la storia di Maria, dell'estetista e della cattiveria delle donne. Le ha fatte entrambe Luca Cattaneo e le trovate sul sito di Radio 24, alla pagina Voi siete qui. Sono entrambe molto belle. Nella prima c'è una donna vestita di rosso, con dei capelli neri e gli occhi bianchi, vuoti. E chiaramente è Silvia, l'estetista, dalla cui bocca escono dei fumetti così, un chilo. E Maria, ipoteticamente, invece, avvilita, vestita di verde, di cui non si vede il viso. L'altra invece è più concettuale, direi. C'è un peso da un chilo tirato a piombo su qualcosa che credo siano dei muscoli, delle fasce muscolari, dei centimetri, del grasso o forse dei capelli. No, Elisa, secondo me lui non la lascia. Cornuta e felice. Fredda però, sì, bella, simpatica, però fredda, cioè non ti viene voglia di toccarla. Ah, e poi non è femminile. Si veste come lui, e quindi vuol dire che non ha personalità. Assomiglia al suo padrone, come un cane. Sì, hai ragione, è proprio il problema delle gatte morte, che poi guarda, non è neanche vero perché non è una gatta morta, Lei non è seduttiva. Sì, Cristina è una di quelle sempre sorridenti, quell'accoglienza femminile che all'inizio è meravigliosa, e poi ti soffoca. Poi tra l'altro perché una dovrebbe essere sempre sorridente? È la classica compagna dell'uomo in vista, una che potrebbe dire «Sono la fidanzata di...» Oh mamma mia, sparatemi se faccio quella fine. Che poi carina è carina, Però con la camicia di seta fucsia, i capelli alla Belen un po' spettinati, sciupati. Ecco, carina ma sciupata. Ragazzi, io odio le straniere, quelle che stanno qui e parlano un'altra lingua perfetta. Fa subito cool. Io sono di Cuneo, figurati. Pensate, io sono di Novara. Ecco, un tipo che non sopporto sono le amiche speciali. Avete presente? Quelle che non sono riuscite ad avere lui e allora diventano amiche. No, a me non danno fastidio se sono brutte. Già, io o voglio molto bene alle ragazze fighe oppure mi danno molto fastidio. Io invece odio quelle che sono fighe ma portano in giro il loro essere fighe con molta naturalezza. No, è meglio ostentarlo come faccio io, altrimenti quella è falsa modestia. Invece a me ragazze mettono in imbarazzo gli atteggiamenti femminili di segnalazione del territorio. Avete presente le amiche del fidanzato che quando usciamo tutte insieme si siedono davanti in macchina? O che ne dite delle fidanzate che cercano di educare il fidanzato e di cambiarlo? Oddio, orribile. Ragazze, sparatemi anche se faccio quella fine lì, Tesoro, tu dovresti essere già morta da mo'. Questo era quello di cui vi parlavo prima, è una parte di una conversazione catturata tra quattro donne, credo nella cucina della casa di una di loro, spero che loro non l'abbiano sentita, però ringrazio la persona che me l'ha fatta avere. 349-238-6666, della serie I messaggi fuori contesto, Paolo Milanese a Vicenza, oggi è Sant'Ambrogio, raccontaci della fiera degli Obei Obei. Ma perché? E poi, ci pensa qualcun altro, infatti. E poi Agnese che mi scrive: su 101 donne malvagie di tutti i tempi è riuscito a selezionarne due, entrambe cattoliche. Lascio a lei la conclusione. No, la prego, me la dia la conclusione, perché io non la trovo invece. E poi si cita il Marchese de Sade: l'uomo è cattivo, la donna è diabolico. La diabolica, perdonatemi. E poi invece Donatella mi scrive: ho appena cacciato una mia collega dal piccolo rinfresco organizzato per le mie dimissioni in azienda. Bellissimo. E ancora Roberta: sono appena stata molto cattiva. Ho detto ad una collega che quello che mi racconta di solito mi annoia. Però questo non è cattivo. Cioè, ci sta che uno mi annoia. Esatto, è una questione di sincerità. Non è che uno, perché dici che ti annoia, che diventi una... no? Mia cugina, verso i 15 anni, diceva che usciva con me perché, essendo lei più bella, i ragazzi la guardavano e io non le facevo concorrenza. Grandissima stronza. Vabbè, però anche quella che l'ammette. E poi invece c'è un messaggio, prima di andare oltre, che in realtà non vale perché si parlava della cattiveria tra donne. Però devo dire che sembra un pezzo di una soap opera, quindi lo leggo comunque. La compagna di mio fratello ha sedotto con email clandestine mio marito, padre dei nostri 3 figli, mentre eravamo tutti in vacanza nella stessa casa. Scusa, mi viene un po' da ridere, però semplicemente perché è grave la cosa. Ho scoperto la storia 1 anno dopo. Ditemi se questa non è cattiveria verso di me, mio fratello e i miei nostri figli. Guarda, secondo me è più di insomma, è più che cattiveria, è una roba diversa. Certo che però, ragazzi, cioè, ma le email le mandava durante la vacanza? Cioè, eravate di tutti in vacanza insieme nella stessa casa e lei gli mandava le email? 349-238-6666. Qual è stata la donna più malvagia della storia? Nell'opinione comune è stata Lucrezia Borgia. Lucrezia Borgia, che in realtà non è stata una donna cattiva, è stata una donna di grande capacità politica, è stata una donna che governava quando il marito era assente. È stata sposata a 3 uomini diversi che le sono tutti morti, tutti e 3, credo, sicuramente i primi 2. Lucrezia Borgia era la figlia illegittima di Papa Alessandro VI. È stata duchessa di Ferrara tra il 1505 e il 1519. Però è divertente perché tutti i titoli sono stati, per l'esattezza, duchessa di Ferrara, Modena e Reggio, contessa di Pesaro e Gradara, duchessa di Bisceglie e principessa di Salerno, governatrice del ducato di Spoleto, reggente dello Stato della Chiesa, reggente del ducato di Ferrara. Insomma, si diceva di lei che fosse una femme fatale, ma in realtà appunto è stata più una nomea che non altro, aiutata anche da una storia che era stata musicata da Donizetti, in cui la sua figura, la figura di Lucrezia Borgia, veniva associata a quella di una femme fatale. La storia di Lucrezia Borgia è una storia molto interessante, andatevela a cercare. Noi l'abbiamo recuperata, devo dire, abbiamo cercato in ogni modo, abbiamo cercato anche alla casa editrice, che però dicevano che questo libro era introvabile. È un libro che si chiama Lucrezia Borgia ed è scritto da Maria Bellonci. L'abbiamo trovato nella, a proposito di nonne, nella libreria personale della nonna di Margherita Aina, che ce l'aveva a casa sua a Romentino, e di questo ringraziamo per questo la ringraziamo. In questo libro c'è il racconto di un ritratto di Lucrezia Borgia che si trova alla National Gallery. Se avete e se lo trovate, postatelo sul profilo Facebook del programma, e che la ritrae in tutta la sua meraviglia. Ma il vero ritratto di Lucrezia dobbiamo riconoscerlo nella tela che si può vedere alla National Gallery. L'opera è compiuta tra il 1505 e il 1515. Di questo tempo, infatti, è l'abito, di velluto nero, controtagliato, aperto su ampie maniche bianche fregiate di rosso. Di questo tempo la pettinatura, a capelli sciolti, arricciati sobriamente alla lombarda e condotti a riprendersi in treccia sulla schiena. Gli ornamenti e i gioielli, di una raffinatezza rara o sottilmente allegorica, come la ghirlandina che cinge la fronte d'oro smaltato e rilevato di perle, o come i fregi di smalto e velluto a fiori alternati in rosso e nero, che incorniciano la gorgierina bianca allacciandosi in piccoli nodi geometrici, e soprattutto come la collana di botticelle a 4 facce. Questa collana, nei ritratti del tempo, portava smaltati su una delle facce di ogni bottesella i simboli della passione: chiodi, croci, scalette, e in un'altra alcune lettere che, seguitandosi in giro, dovevano comporre un motto, forse latino. I lineamenti, il collo delicato e carnoso, l'ovale pieno, fra poco aggravato, il mento appena sfuggente, l'occhio celeste misto di grigio, il biondo dei capelli che nelle ciocche pendule presso le tempie diventa luminoso, coincidono con le descrizioni dei contemporanei e con gli altri ritratti di Lucrezia. Suo è quello sguardo lungo, attento a raffronti segreti, che sfiora le cose e ad esse si rifiuta. Sua quell'aria straniata e straniera di chi consente per sola saggezza alla propria presenza. Sua la grazia dell'atteggiamento e pur nel viso maturo e segreto quella diffusa levità di giovinezza interiore che a momenti le crea nel volto serio qualche cosa che somiglia ad un sorriso. She's looking good now. Hush, baby, baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, don't you cry. Don't you cry. Domani è l'8 di dicembre, dopodomani è il 9. Credo che in Italia praticamente tutti facciano il ponte, per cui avete giovedì, venerdì, sabato e domenica. Noi siamo qui giovedì e venerdì. Se voi avete voglia però di prendervi questi 4 giorni per mettervi lì una mezz'ora o un'ora e raccontarmi un piccolo episodio della vostra vita che racconti qualcosa di voi, di farlo in una pagina, speditemelo a voisietequi@radio24.it e noi ne faremo diventare una puntata di questo programma. La storia di oggi era la storia di Maria, parlava della cattiveria delle donne. La storia di domani è quella di Massimo e parla di quando la vita per un attimo rimane sospesa. Da quando sono bambino, gli anziani mi hanno insegnato a pescare con le mani. Braccio in grotta a cercare il pesce, chiudi la fuga e lo prendi per le branchie. Sì, lo so, non è molto legale, ma cosa c'è di più difficile di prendere un pesce viscido tra le mani? Anni di pesca, trote fario anche di 1,5 kg, ma il 3 settembre del 2007 avrebbe segnato la mia vita.